Babbi, Tatti, Thassi, Jajji, Hachi, Chochi, Daddi, Zazzi, Rarri, Zazzi, Sassi, Shashi, Sassi, Dobbi, Totti, Vavvi, Aai, Gorri, Faffi, Kokki, Kekki, Lalli, Mammi, Nanni, Hahi, Wawi, Yayi.